fine il mondo. Carnevale in Friuli. 18ª trasmissione dedicata agli emigrati. A carneval, ogni mat al val. L'adagio si addice più al passato che al presente. Il carnevale infatti vantava fasti famosi. Quello di Venezia, ad esempio, richiamava sulla laguna i buontemponi di mezza Europa. Breve stagione della spensieratezza che ha inizio con l'Epifania, Epifanie scove vie, culmina in Friuli con mascherate che riaccendono anche oggi l'emulazione dei paesi e dei borghi, come avviene a Siena per il Palio delle Contrade. In segreto gli uomini studiano e allestiscono i carri, mentre alle donne viene affidata la confezione dei costumi. Piccoli centri rurali, Remanzacco, Orsaria, Tissano, si trasformano in cantieri, botteghe artigiane e cortili rustici appaiono ingombri in questi giorni di legname e di tela, di carte e di ferri contorti, di barattoli di colori e di fronde. Grossi centri come Gemona, Magnago e San Daniele del Friuli si valgono di appositi comitati di architetti e di artisti in gara di invenzioni e di bravura. Sollecitano i vicini paesi perché figurino al corso mascherato con propri carri nei quali la satira affiora. Anche Gorizia, fedele alle tradizioni friulane e interrotte dalla guerra che la ferì nel profondo, saluterà quest'anno una mascherata lungo il suo bel corso ombrato di magnolie e profumato di rosai. In Carnia riappaiono le maschere di legno, intagliate spesso da una mano sensibile al grottesco. La brigata carnevalesca passa per le strade nevose, sosta di casa in casa, seguita da un chiassoso codazzo emettendo urla e lazzi tra musiche e canti stonati. Non raro il caso che qualche salsiccia, appesa ad affumicare in cucina, scompaia per ingrossare le provviste ricevute per il pranzetto finale, poiché, se è vero che semel in anno licet in sanire, è altresì vero che tutti i salmi finiscono in gloria. Bello malumari, arrobe un sam! Fodilo fuori, che lo basta! Rabe di mine, indovinate! E grazie barone a nome e compagnie. Il penultimo giorno di carnevale, il cosiddetto Dì di Chevrut, la mascherata sfoggia tutte le sue risorse logistiche. Tutto serve allo scopo. Vestiti dimessi e capelli bisunti, un paiolo in testa e una fisarmonica rabberciata, una chitarraccia montata di corde di spago, un ombrello lacero, un pitale in funzione di coppa in comune. Tutto è motivo d'allegria in quel giorno, come dice il poeta. Antigais di Rico Fru, il dì di Chevrut. Anin avio di pal balcon dal chias la mascarade. Ecco la carneval, scudulate strafont in cime al pal che i ven in bas. Ecco mascheris gnovis di ogni bande, cu la musica interie e il tamburon. E Menelik voluzzat un leon, chiarai ce ande. Musica, ordena il capo cui voca al palaier. Po partis la mascarade. E passant sotto il pal, mole un eucade a carneval. Sui palchi improvvisati i giovanotti danno spettacolo. Poi, con barzellette, scene comiche, dialoghi che hanno imparato dai nonni. Uno di tali dialoghi, il contrasto fra Carnevale e Cresime, di origine letteraria, interessa la storia del costume friulano.